Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Hai cominciato a fare il giro di parenti e amici, a denigrarmi in tutti, ma cioè lui voleva annientarmi, capito? Oggi tutto questo si chiamerebbe stalking, ma allora dovevo solo sopportare per mio figlio. Storie di matrimoni sfortunati e di notti scellerate in una puntata che si intitola Abuso di potere. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Roma, visti gli articoli 533 e 535 del Codice di Procedura Penale, dichiara di Bernardo Alessio e D'Alessandro Raffaele responsabili del delitto loro ascritto al capo A, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e equivalenti alle residue aggravanti, condanna ciascuno alla pena di anni 12 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali. Visti gli articoli 29 e 32. Quella che state sentendo qui sotto è la voce del giudice che nel 15 novembre del 2019 leggeva la sentenza definitiva per il caso Stefano Cucchi, per la morte, per l'uccisione di Stefano Cucchi, in cui sostanzialmente venivano condannati due carabinieri per l'omicidio di Cucchi a 12 anni di reclusione e poi insomma altre pene da scontare. Noi abbiamo aperto in questo modo perché la puntata di oggi si intitola Abuso di potere e l'omicidio di Stefano Cucchi, anche grazie alla sorella Ilaria, è salito agli onori della cronaca ed è stato raccontato grazie alla fatica, al lavoro, allo sforzo incredibile di questa sorella che ha deciso di non prendere per buono quello che le era stato detto e le era stato raccontato. In questa puntata, che come vi dicevo si intitola Abuso di potere, noi in realtà vi racconteremo un'altra storia, che è una storia che purtroppo da qualche tempo si sente sempre meno, perché succede così, perché passano gli anni e perché ci si dimentica delle cose, perché magari se ne ricordano altre, o semplicemente perché magari i familiari di quella persona non hanno più forza, non hanno più modo di continuare a raccontare quella storia. Ma oggi, 25 settembre 2020, è l'anniversario dei 15 anni esatti dell'uccisione di Federico Aldrovandi. Era il 25 settembre del 2005, era di notte, Federico era un ragazzo di 18 anni, era uno studente e camminava per la sua città, per Ferrara. Era ritornato da una serata in un locale di Bologna che si chiama Link, dove era stato con i suoi amici, era probabilmente sotto l'effetto di qualche stupefacente, ma quello che è accaduto dopo è stato conosciuto grazie al fatto che la sua famiglia, e in particolar modo il papalino e la mamma Patrizia Moretti, non hanno avuto paura e hanno avuto il coraggio di andare davanti alle telecamere, sotto spesso una pressione senza senso, davanti a degli insulti che sono stati durissimi nei loro confronti, degli attacchi davvero quasi all'arma bianca nei confronti soprattutto di Patrizia. Ebbene, però, quella notte, di cui oggi racconteremo una parte proprio grazie alle parole di Patrizia Moretti, è un libro di memoria che ha scritto qualche tempo fa, vogliamo ricordare quello che è accaduto quella notte. Oggi Federico avrebbe 33 anni, sarebbe un uomo, e questa è una storia che quando accadde io seguì perché per diversi motivi. Nel 2005 avevo 30 anni esatti e mi capitava di uscire la sera come tutti quanti, soprattutto quando si è più giovani, e di tornare a casa non tardissimo, perché i miei genitori quando avevo 18 anni mi davano l'orario tassativo, dovevo tornare massimo alle 11 di sera a casa e poi mezzanotte, poi lentamente gli orari sono andati sciogliendosi, ma mi ricordo questa storia benissimo, una storia che mi è sempre bruciata fortissimo nel sangue, e quando l'ho seguita, quando la seguivo, quando questo tutto quanto era accaduto, quando si cercava di dare la colpa allo stesso Federico e non invece alle quattro persone che l'hanno ucciso quella notte, e questa è una storia che noi sentiamo e risentiamo ancora. l'abbiamo nel maggio di quest'anno l'abbiamo risentita e rivista tramite le immagini che arrivano dagli Stati Uniti e l'uccisione di George Floyd. C'erano probabilmente dei motivi razziali lì, ma la situazione è esattamente la stessa. C'è una persona a terra e c'è una persona, in questo caso ahimè più di una persona, sul corpo di quella persona che a terra semplicemente a un certo punto non riesce più a respirare, e quando non si riesce più a respirare il cuore non riesce più a battere, e quello che succede è che si muore. Questa puntata di oggi si intitola Abuso di potere e vi racconteremo sì delle linee d'ombra dalle quali ahimè non si torna indietro, perché quando noi vi chiediamo delle storie legate a delle linee di confine, vi chiediamo cosa è accaduto quando avete valicato quella linea. E oggi vi racconteremo la storia di Federico Aldrovandi e vi racconteremo anche la storia di una donna che subisce un abuso di potere da parte del marito, e quella linea lei la varcherà solo e si libererà solo quando il marito non ci sarà più. Ma andiamo con ordine, noi raccontiamo storie, non facciamo nient'altro. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. All'alba dei miei 70 anni, dopo 30 anni di angherie, dispetti, ricatti, sceneggiate, è andato. Poiché nulla ho mai fatto perché ciò accadesse, anche se in cuor mio tante volte ho sperato che succedesse qualcosa per liberarmi da quelle catene, finalmente ho respirato. È successo 3 anni fa che potessi uscire dall'ombra nella quale avevo sempre dovuto celarmi per non suscitare le sue ire, temere per la mia vita e quella di mio figlio e non mettere a disagio le persone che mi erano vicine. Era stato un matrimonio pieno di speranze e di progetti, infrantesi dopo pochi anni, quando il giovane che ai tempi si stava laureando e voleva con il mio aiuto cambiare il mondo, aveva lasciato solo me a tirare la carretta. Io avevo un buon lavoro, una buona famiglia alle spalle e lui si è adagiato su tutte le mie cose. Anni di discussioni perché si attivasse a finire gli studi, ai tempi una laurea aveva un grande valore, che facesse qualche concorso per trovare un buon lavoro, ma niente, lui vivacchiava. Tanto c'ero io e c'era la mia famiglia a pagare tutto e risolvere ogni problema, ogni necessità. Ho fatto diversi percorsi per cercare di abbassare le mie aspettative ed accettare questo uomo che in fondo, ma proprio in fondo, non faceva niente, ma mi lasciava libera di fare tutto io. Avevo prospettive buone per allora, insomma, guarda questo ragazzo, insomma, si sta facendo da solo. Erano più le prospettive, in effetti. Dopo, sai, ti incontro che mio padre era come un generale, a casa mia sembrava essere in caserma. Invece col mio allora fidanzato, lui era contento di quello che facevo, mi lasciava molto, apprezzavo quello che facevo, cioè io mi sentivo molto gratificata, quindi alla fine poi ci siamo sposati e ero libera perché non avevo più mio padre sul collo, mio marito che mi approvava, mi proprio era contento di quello che facevo. C'è stato un punto proprio, guarda, dopo diciamo 4 anni, 5 anni, abbiamo comprato la casa, che sai era un punto di traguardo per me, veramente un buon traguardo, però da qui si partiva. Invece per lui era l'arrivo, il punto di arrivo, e da lì lui non si è più mosso. La cosa non progrediva. Allora ho pensato, sbagliando, che un figlio potesse essere un impegno e uno stimolo. Errore. Sempre peggio. L'uomo era diventato bambino. Così mi sono ritrovata con 2 figli, uno grande e uno piccolo. E no, non mi andava bene. Avevo pensato di separarmi, ma parliamo degli anni 80. Ambiente cattolico, era difficile. E così ho tirato avanti, svuotandomi piano piano della mia forza vitale. Le cose sono andate sempre peggio, per cui quando ho compiuto 40 anni ho deciso che non me la sentivo di invecchiare vicino ad una persona del genere. Se non prendevo allora una decisione, non ne avrei mai più avuto la forza. Ho chiesto la separazione, ma quella che mi era sembrata una liberazione è diventata la mia condanna. Ha fatto allora ed ha sempre continuato a fare il giro di parenti, amici, conoscenti per piagnucolare sul suo stato di abbandono, accusandomi di ogni malvagità, sapendo perfettamente che la mia dignità non mi avrebbe permesso di seguire i suoi passi per smentirlo. La mia delusione per il fallimento del mio matrimonio era troppo grande e non mi sentivo di dividerla con nessuno. Ma avevo un figlio, un bambino di 7 anni che mio marito ha sempre usato contro di me per ricattarmi. Non uso questo termine a caso, perché qualunque cosa facessi, lui la trasformava col figlio in un proiettile contro di me. I got a Fatto il vuoto attorno, riempiendo lui tutti gli spazi. È diventato amicissimo di tutti i miei condomini che frequentava quotidianamente, controllando e criticando ogni mio movimento. Si è accattivato perfino la comprensione dei miei parenti, lasciandomi completamente sola. Dovevo sempre camminare nell'ombra perché se mi vedeva o intuiva che partecipavo a qualche attività della scuola o del tempo libero del bambino, cominciava ad urlare, ad insultarmi, a minacciarmi, finché non me ne andavo, umiliata. Tanti episodi, ma quello più significativo è stata la mia rinuncia a partecipare al matrimonio di mio figlio per il timore che facesse le solite sceneggiate e gli rovinasse quella bella giornata. Poi è nato il nipotino. Aiuto. Battesimo con me nell'angolo e lui che dall'altra parte della sala inveiva contro di me. Prima di arrivare alla separazione io sono andata al consultorio, sono andata da uno psicologo avevo tentato di fare terapia di coppia, ma lui non è venuto, non ha accettato. Lui non riusciva a mettersi in discussione. Tanto è vero che durante la separazione, che è durata quasi quattro anni e mezzo, perché non si riusciva ad arrivare, alla fine ho mollato tutto, non ho voluto niente. In 30 anni non era cambiato niente. Mi rattristava questa storia, dovevo sempre andare in punta di piedi. A me gli oneri, anche economici, e a lui gli onori che si prendeva. Adesso tutto questo si chiamerebbe stalking, ma allora dovevo solo sopportare per mio figlio. Ma ecco, vengo a sapere che è ammalato, è in ospedale ed è grave. Vado di corsa per stare vicino a mio figlio e lui spira in quel momento. Non ho provato niente, né rancore né rabbia, ma ho tirato un sospiro di sollievo. Era finita. All'alba dei miei 70 anni potevo forse vivere la mia vecchiaia senza incubi e finalmente fare la nonna. Ci sono puntate più delicate di altre, ci sono storie più delicate di altre. Noi siamo molto contenti di raccontare la storia di Grazia, non solo perché in sé è come sempre è un pezzo di vita importante che racconta, tra l'altro, una linea di confine enorme che Grazia valica, ma perché di storie come queste ce ne arrivano parecchie. In alcuni casi le protagoniste ci chiedono di non essere citate, oppure dopo che le ricontattiamo si dileguano. Insomma, non, evidentemente la storia viene mandata con la voglia, il desiderio di raccontare, e poi quando invece arriva il momento di raccontarla e di farla diventare pubblica, forse c'è qualche timore legato alla narrazione. Non è chiaramente il caso di Grazia. Pronto, ciao Grazia, buongiorno. Buongiorno Matteo, ciao. Come stai, Grazia? Bene, bene, grazie. Compatibilmente con l'età e con il momento un po' difficile, insomma, un po' per... Sembri una ragazzina però, Grazia. Hai la voce di una ragazzina. troppo gentile. Senti, partiamo dall'inizio perché la tua storia è una storia molto lunga che riguarda l'arco di una mezza vita intera praticamente. Sì, quanto sì, è durato? 30-40 sì. Anni, giusto? 30 anni, beh, 30 anni. Diciamo sono stata sposata a 16 anni con varie difficoltà, poi dalla separazione in poi sono passati 30 anni esatti, insomma. Ah, okay. di torture, ecco, di torture. Grazie, cosa intendi quando dici che tuo marito viveva di nuovo? Cioè, che lavoro faceva lui esattamente? Ma lui in effetti, noi sai, appunto parliamo di anni 70, quindi sì. non è che sì, noi vivevamo lontano, ci siamo conosciuti in un ambiente cattolico, io abitavo a Verona, lui frequentava l'università a Trento, ci siamo, ecco, vabbè, insomma, quindi non eravamo vicini. Poi lui studiava in effetti, ma siccome io in effetti a casa mia, guarda, mio papà sembrava un generale, ero come in caserma, ormai lavoravo, non ero più una ragazzina, insomma lui è venuto a Verona e ci siamo sposati, non si poteva convivere allora, tanto certo. Io lavoravo, lui stava finendo gli studi, quindi vabbè, insomma, le prospettive erano buone, era un ragazzo buono, molto sì, sì, questo, ecco, è chiaro, sì. Quindi ecco, così, insomma, quindi... Ma poi lui non ha trovato un lavoro, lui non si è messo a fare qualcosa in effetti. No, lui non riusciva a mettersi, a confrontarsi. Lui infatti io lo spingevo, fai concorsi, fai, ma anche perché sai, i tempi, voglio dire, c'erano tante possibilità. Era più facile. Certo, era molto certo. Più facile, ecco, facevi magari un po' di gavetta, ma poi ti sistemavi, come era successo anche a me. Lui invece non riusciva a mettersi a confronto, tanto è vero che anche all'università lui doveva finire ancora un po' di esami e non trovava il bando, addirittura l'ho costretto, gli ho trovato un compagno per finire l'università. Insomma, è chiaro che tu un pochettino spingevi per e lui non riusciva. Mi spieghi, perché io proprio mi sono segnato alcune delle tue frasi del tuo racconto. Tu a un certo punto, rispetto al rapporto con tuo figlio, tu dici: qualunque cosa facessi, lui la trasformava con mio figlio in un proiettile contro di me. Mi fai un esempio per spiegare questa? Guarda, a parte che sai, lui, ecco, il bambino viveva con me, era piccolo quando decise di separarmi, aveva 7 anni. E il papà faceva il figlio, cioè faceva decidere tutte le cose al bambino, e io qualunque cosa facessi, per dire a scuola, li portavo la merenda, ecco, per dire, era una scuola privata, lui, io stavo fuori perché dovevo andare a lavorare, la mettevo davanti a scuola, lui invece era dentro nella hall della scuola, controllava la merenda e ovviamente con le persone che c'erano lì faceva commenti, faceva, e quindi il bambino diceva: la mamma allora non mi ha dato le cose giuste. Sì, ecco, questa è una cosa molto semplice, insomma, ecco, dalla parte del papà. Sì, assolutamente, proprio. Perché lui ha sempre fatto la vittima e quindi il bambino si era schierato dalla parte del papà. Quindi questo ha gravemente messo in discussione il rapporto con tuo figlio in quegli anni. Assolutamente, assolutamente. Quanto è durata questa incomprensione? Finché è morto mio marito. Poi hai recuperato il rapporto? L'ho recuperato abbastanza, perché adesso ho un bambino, mio figlio ha 40 anni adesso. Ah, adesso ha due bambini, una bimba di un anno e il bambino di tre, e col bambino io gli sono stata molto vicina, l'ho aiutato, addirittura, che magari è una storia che ti scriverò, gli ho trovato la fidanzata, quindi ero in buoni rapporti con mia nuora. Cioè, hai trovato la fidanzata a tuo figlio? Sì. Diciamo che della famiglia era quella che cercava, il lavoro per uno, la fidanzata sì, per l'altro. Guarda, sei sempre stata molto proattiva, mi sembra di capire, grazie. Sì. Cosa facevi nella vita? Che ruolo avevi in azienda? Guarda, io ero un'impiegata, ma di un buon livello, insomma. Okay. Ero segretaria di direzione, insomma, vabbè, sempre un buon livello in un'azienda bellissima che mi ha dato tante soddisfazioni, e questo mi ha aiutato molto a superare tutte queste difficoltà. Ma poi quando vi siete separati, tu sei riuscita dopo la separazione a farti un'altra vita, ad avere magari un compagno, oppure sei rimasta invischiata lì dentro? No, guarda, io appunto non mi sono arresa nonostante tutte le difficoltà. Lui ha continuato a tormentarmi, a essere sempre presente tramite parenti, vabbè. Io dopo ho aspettato un bel po', naturalmente, perché dovevo crescere mio figlio, ecco, quindi mi sentivo molto, molto responsabile. Però io dopo ho trovato altri amici, ho trovato un compagno, recentemente mi sono anche sposata, quindi ho fatto la mia vita. Complimenti, grazie. Senti, io ti ringrazio molto, perché davvero questa storia, come dicevo prima della tua telefonata, è una storia esemplare per moltissime donne. Lo dico non per esperienza, ma perché ce ne arrivano parecchie, quindi la tua, diciamo, ha in sé anche un senso di futuro che è un piacere raccontare. Grazie, in bocca al lupo per tutto, con i nipoti, con tuo marito e per il resto della vita, insomma. Grazie molte a voi, grazie molte a voi. Ciao, grazie. Ciao. Now and she wants to rule me a while. Now when she says something contrary, now she don't want me to do nothing but smile. Last night in my bed I found a black panther, must have been about 49 inches. You could hear me holler, man, and I didn't have time to swallow. In my bed I found a black panther, must have been about 49 inches long. Now I went and got my charger and I started killing, but I thought my baby's been doing me wrong. Ringrazio molto Grazia per averci raccontato questa storia. Questa storia, come vi dicevo in apertura, è una storia comune, abbiamo deciso di raccontare questa, ma rappresenta diverse storie che ci sono arrivate, non per forza di questo peso rispetto ad abusi di potere maschili all'interno della famiglia o anche al di fuori della famiglia. Questa però entra nei dettagli e la racconta in maniera molto precisa. Se per caso avete voglia di condividere le vostre storie, se la vostra linea d'ombra è stato un matrimonio, è stato un incontro e da quell'ombra non ne siete uscito, avete fatto fatica ad uscirne, lineadombra@radio24.it. Noi prendiamo e raccontiamo una storia e tra pochissimo torniamo dopo le borse in diretta. È la storia di Federico Aldrovandi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'ombra. Il 25 settembre del 2005 Federico Aldrovandi viene ucciso da quattro persone, sono quattro poliziotti, che lo bloccano in una strada di Ferrara mentre torna a casa dopo una serata tra amici a Bologna. Lo definiscono un invasato violento in evidente stato di agitazione e sostengono di essere stati aggrediti da lui a colpi di karate e senza un motivo apparente. Federico aveva 18 anni. I procedimenti giudiziari hanno condannato il 6 luglio del 2009 queste quattro persone, questi quattro poliziotti, a 3 anni e 6 mesi di reclusione per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. E nel giugno del 2012 la Cassazione ha confermato questa condanna. Il racconto che stiamo per fare è preso dalle parole della mamma di Federico Aldrovandi, Patrizia Moretti, e Patrizia è una donna fortissima che si è presa sulle spalle il peso di questa battaglia, che è una battaglia che è cominciata in maniera quasi in sordina, perché di fatto quello che stavano facendo credere alla famiglia Aldrovandi era che questo ragazzo fosse un drogato, e si è cercato, e la stessa questura ha cercato di convincere i genitori di perdonare questo povero figlio che era in una situazione drammatica e aveva per colpa sua, solo ed esclusivamente per colpa sua, causato la sua stessa morte. Patrizia non ci ha creduto, conosceva evidentemente molto bene Federico e non ha mollato mai un colpo in mezzo a quel mare di dolore, e lo ha fatto per ottenere una giustizia che sembrava veramente lontanissima, con attacchi che sono arrivati durante questi anni a lei, alla sua persona e a tutta la sua famiglia. Ed è preso dal libro che Patrizia ha scritto qualche anno fa, e che parte proprio dal racconto di quella notte. È un libro che si intitola Una sola stella nel firmamento, e quella notte lei la racconta così. State con noi. Forse è stato un sogno, non ricordo, ma erano le 5 del mattino, mi sono svegliata di colpo, senza motivo. Succedeva spesso quando Federico usciva il sabato sera con gli amici e magari faceva tardi. Sapevo che erano in giro in macchina e non riuscivo a dormire come le altre notti. Mi fidavo di lui, certo. Quando ritardava mi mandava un messaggino, però c'era sempre quell'ansia sottile, quel pensiero. È come una piccola scheggia che non riesci a togliere. Non un dolore, piuttosto un fastidio persistente. Speriamo che vada tutto bene, che non succeda niente. Alle 5 non riuscivo a chiudere occhio, chissà se è tornato. Poi ho sentito un rumore provenire da camera sua, lassù, in mansarda, e lì mi sono placata. Ho chiuso gli occhi e ho dormito fino alle 8. È stato solo a quell'ora che abbiamo scoperto che Federico non era a casa, non era tornato. È stato Lino, mio marito, è andato di sopra e ha visto la porta socchiusa, il letto era vuoto, intatto, come se non ci avesse dormito nessuno. Ha iniziato a brontolare, non era mai accaduto che non avvertisse. Non era nei patti, non avrebbe dovuto fare così. Era strano da parte di Federico, che intanto non tornava. Alle 6.45 Lino Aldrovandi si accorge che il figlio non è ancora rientrato. Sono andato nella sua camera e ho visto che il letto era ancora così com'era quando la era la sera. Quindi sono subito corso da mia moglie, l'ho svegliata, ho detto guarda Federico ti ha chiamato, perché lui era sempre premuroso. Patrizia inizia una lunga sequenza di chiamate verso il cellulare di Federico, tutte senza risposta. Il numero è registrato alla voce mamma. Io volevo sentire la sua voce, sapere dov'era. Quindi ho preso il telefono e l'ho chiamato. Lui non ha risposto. Ho riprovato, ma il cellulare squillava a vuoto. Speravo che fosse perché magari l'aveva dimenticato la sera prima, da qualche parte. Era distratto, come tutti i ragazzi. Per questo non rispondeva. Sì, non poteva che essere così. E intanto non tornava. Ho detto a mio marito di provare dal suo cellulare. Ha chiamato. Sul telefono di Federico lui era memorizzato come Lino, non come papà. Ha risposto qualcuno. Una persona che con tono arrogante ha chiesto subito chi fosse al telefono. Il padre, ha spiegato Lino. E quello gli ha chiesto di descrivere Federico. Poi ha detto di essere un agente di polizia. Avevano ritrovato quel cellulare abbandonato su una panchina vicino all'ippodromo e stavano facendo degli accertamenti. Niente di più. Li ha messo giù. E intanto non tornava. Like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been in shape. They got a Cheshire cat grin, all blurring into one. This place is on a mission. Before the night out, before the animal noises, closer get cameras. Before you come. Ho iniziato a tempestare di telefonate alla questura, ma continuavano a dire che non sapevano, che dovevano informarsi, di riprovare più tardi. Ho telefonato a tutti gli ospedali della zona, agli amici che erano con lui a Bologna la sera prima, e intanto non tornava. Erano già passate 3 ore, non sapevamo niente, eravamo avvolti nel buio, scaraventati dentro un vortice di angoscia senza pensieri. Volevo correre all'ippodromo, andare a vedere, ma Lino insisteva per aspettare. Ci avevano detto che ci avrebbero chiamati, ripeteva. Lascia stare. C'è andato Stefano, l'altro figlio, in bicicletta, ma per fortuna è arrivato all'ingresso sbagliato, dall'altra parte. Lo stavano cercando tutti, mia sorella, mio cugino, al telefono, in giro per Ferrara. Ho avvertito anche mio padre. Niente, non tornava. Alle 11 è arrivato a casa nostra Nicola Solito, un poliziotto e un caro amico, con 2 agenti in divisa. Ci ha raccontato. Mi ricordo soltanto di aver pensato subito a Stefano, l'altro nostro figlio che stava ascoltando. Non era nella stanza, lì con noi, ma poco più in là, sulla scala. Aveva sentito tutto. Sono corsa da lui. Pensavo solo a lui. Non mi ricordo altro. Buio. Non si può raccontare la morte di un figlio. Non si può pensare. Io sono la mamma di Federico Aldrovandi. Federico ha aveva 18 anni, 4 anni fa, quando il 25 settembre 2005, come molti di voi sapranno, è stato ucciso per strada mentre rientrava a casa. È stato difficilissimo. Per quasi 5 ore, dalle 6.15 alle 11, il corpo di Federico Aldrovandi resta per terra, sull'asfalto, vicino al cancello del galoppatoio. Nessuno si preoccupa nemmeno di coprirlo con un lenzuolo. Si saprà poi che l'ordine esplicito è quello di ritardare l'avviso ai genitori e di aspettare che la salma venga trasportata all'istituto di medicina legale. Toccherà a Franco, il fratello del padre, andare a riconoscerlo. Nicola Solito dice a Patrizia che è meglio che lei non ci vada, che non veda Federico in quelle condizioni. Suggerisce che a effettuare il riconoscimento sia una persona forte. Ci va lo zio Franco, che è un infermiere. La sera, quando vengono restituiti alla famiglia i vestiti di Federico, i genitori si accorgono che il giubbotto e la felpa sono imbevuti di sangue. La versione della polizia è che un abitante della zona, allarmata dalle urla che arrivavano dal parco accanto all'ippodromo, aveva chiamato il 112. La pattuglia si era trovata davanti a un ragazzo che farneticava in stato confusionale. Sbatteva la testa contro i pali della luce, dava di matto, era incontenibile, era saltato sopra il cofano della macchina della volante. Era una furia. Continueranno a ripetere gli agenti. Era una furia. Per questo avevano dovuto ammanettarlo. Al loro arrivo, gli operatori del 118 l'hanno trovato a terra, a pancia in giù, ormai morto, con le manette ancora ai polsi, dietro la schiena. La storia che vi abbiamo appena letto è tratta da questo libro pubblicato in Italia dal Saggiatore, che si intitola Una sola stella nel firmamento. L'ha scritto Patrizia Moretti, la mamma di Federico Aldrovandi, insieme a Francesca Avon. Se avete voglia di saperne di più, se avete voglia di conoscere meglio la storia di Federico e della sua famiglia e di abusi di potere come questo, o meglio di quello che rimane degli abusi di potere, quello che rimane a casa, alle persone care, alle persone che sono state vicine a un ragazzo, a un figlio di 18 anni, ecco, magari leggetevi questo libro. E questa, come sapete, come immagino sappiate, è una delle storie di abuso di potere che portano alcune persone semplicemente a non esserci più. Lui era Federico Aldrovandi. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a raccontare, sempre a lì. Noi italiani siamo bravi a fare tutto. Ci danno un virus e noi di colpo diventiamo virologi, epidemiologi, immunologi. In pochi secondi siamo esperti di terrorismo, terremoti, progettazione sismica, biologi, economisti, veggenti, unità di crisi. Siamo campioni del mondo, medaglia d'argento, d'oro, di bronzo, cinefili, cinofili, cintura nera di karate, kung fu, tai chi, patente C, patente B, aeroplani, aerospazio. Niente ci ferma. Sappiamo tutto. Sappiamo fare tutto. E allora saprete anche pulire un parco. Torna Puliamo il Mondo, il 25, 26 e 27 settembre con Lega Ambiente. Se sapete usare internet, puliamoilmondo.it. Linee d'ombra. Ma come si vive davvero nella Legione Straniera? Noi vi stiamo raccontando un punto di vista, che è quello di un giovane uomo che nella Legione Straniera non ci vuole andare. non ci vuole stare, non vuole andare in guerra, e invece alla fine ci dovrà andare per una serie di, chi lo sa, di fraintendimenti o di mancanza di volontà di farlo tornare a casa. Ma come si vive nella giornata straniera? Io ricordo che quando ero un ragazzino nel mio paese si diceva che uno del paese fosse andato nella regione straniera, poi non ricordo nemmeno se era vero, e fu la prima volta che sentii parlare di questa, che sentii pronunciare queste due parole insieme, regione straniera, e anche se non avevo idea di cosa fosse, suonava come qualcosa di esotico e di terribile allo stesso tempo, perché lo straniero ha sempre a che fare con qualcosa di lontano e la legione invece ha a che fare con la guerra, con la battaglia. E poi mi è capitato di conoscere qualcuno che c'è stato nella legione straniera, non sono persone che raccontano moltissimo, che non hanno particolarmente voglia di farlo. E poi qualche anno fa, durante Voi siete qui, il programma in cui già cominciavamo a raccontare storie di vita delle persone, ci sono arrivati due racconti di un ex legionario che, se non ricordo male, si era dato all'addestramento di cani, aveva un allevamento, non addestramento, perdonatemi, un allevamento di cani, e ci aveva raccontato questi 16 o 18 anni nella legione straniera da cui era uscito, era in congedo, e ci aveva raccontato anche degli episodi. Erano episodi, uno in particolare avvenuto credo in Nicaragua, piuttosto cruento. Raccontava la storia di come la legione straniera lì fosse sul territorio, sui fiumi nicaraguensi, se non ricordo male, per combattere la piaga del traffico di droga, di armi e di organi. Era una storia molto cruda, che alla fine ricordo c'era stato un bel po' di dibattito in redazione, anche con Tiziano Bonini, per decidere se raccontarlo o meno. Poi alla fine l'abbiamo raccontata, per ragione che io penso valga sempre, cioè le storie non sono ideologiche, le storie raccontano dei pezzi di realtà, poi ognuno decide di dimenticarle, di metterle da parte, di indignarsi o semplicemente di incastonarle in questa panorama che abbiamo davanti a noi di quello che succede prima e dopo di noi e che probabilmente continuerà a succedere. Tutto per dirvi che stiamo per cominciare con un nuovo episodio della nostra storia seriale, e attraverso le voci di altri legionari scopriamo come si vive in quel posto, tra gli scherzi, le marce, il tempo libero che non passa mai, e poi anche il bisogno di stare vicino a una donna, o quantomeno al corpo di una donna. Attraverso altri diari raccontiamo come i legionari evadano dalle fatiche quotidiane dell'addestramento a Sidi Bel Abbès. Gli scherzi senza sugo, le gratuite scortesie, le volute incomprensioni, i comandi irritanti, le sacrileghe bestemmie, i lavoracci senza ragione e ordine, il fare e disfare inutile, le storielle sempre le stesse oscene, gli sfottimenti a ogni pur minimo segno di intelligenza o finezza, le manate sulle spalle o sul ventre, le sbornie, i vomiti, i tasvù opposti a ogni logica spiegazione. Le relazioni, per chi si arruola in legione, sono per lo più incentrate nella vita da caserma. Ma è una quotidianità faticosa da sostenere per chiunque, e gli eccessi in cui sfogare solitudine e sradicamento sono la regola. Il consumo di alcol è la risposta più immediata, la medicina di tutte le malattie fisiche e spirituali. Ogni tanto qualcuno riesce a procurarsi bottiglie d'assenzio, ma il più delle volte consumiamo pinard, un vinaccio algerino. Gli ufficiali anche bevono, ma loro almeno dispongono di liquori più raffinati, cognac francesi, whisky scozzesi. Si lamentano dei nostri eccessi, ma raramente sanzionano i trasgressori con punizioni severe. Qualche giorno di rigore per i più ostinati, ma nessuno pretende che viviamo nel deserto come impiegati della posta. L'eccesso fa parte della legione, perché la legione stessa è un eccesso. Fino a qualche tempo fa c'erano dei manifesti nelle caserme. C'era un teschio con le ossa incrociate e la scritta «L'alcol provoca la morte». Ma qualcuno ci ha scritto sotto «Il legionario non teme la morte». Quello che so è che la legione non può andare avanti senza alcol. Oltre all'alcol, il legionario consuma il proprio tempo libero alla ricerca di un calore diverso. Appena possiamo andiamo nel Village Negre, vicino a Sidi Bel Abbès. I comandi temono malattie venere, non vogliono che ci andiamo, ma è un divieto più di facciata che reale. Si tratta di un quartiere pieno di odori, di incensi e di acqua di colonia. Là si mescolano ragazzine adolescenti scappate da qualche tribù, meretrici esperte con le mani tinte di henné, donne europee senza storia, richiamate in Algeria da altri disperati. Ragazze che non hanno neppure 15 anni,